L'internazionalismo è una cosa difficile perché chiaramente ci se la può cavare citando la parte, come fanno tutti anche i sovranisti, la parte in cui Marx dice che la rivoluzione comunque passerà per delle vie nazionali, per cui prima bisogna fare i conti col proprio stato nazionale e poi un giorno. Ma di fatto l'internazionale comunista di Marx, ad esempio, è stata fin da subito una riunione di, in realtà, un pugno di operai, di intellettuali, a cominciare da Bruxelles, insomma, ma è subito stata immediatamente internazionalista, cioè non a partire da questioni nazionali, cioè bisogna avere un punto di vista internazionale per guardare le questioni nazionali, non il contrario, come oggi viene detto. E quindi oggi quello che manca è una sede, un punto di vista che non sia legata alla propria nazione. In realtà esiste una specie di corrente internazionale di sinistra che ambisce in un qualche modo a fare l'internazionalismo. Ci sono personaggi, filosofi, no, che girano il mondo, come Žižek, Badiou, Appadurai, la Butler, Spivak, insomma ci sono dei nomi che fanno un po' punto di vista internazionale, non è che sia completamente assente, però è molto accademico, ecco, questo è un po' il problema. Vorrei chiederle il suo punto di vista su questa iniziativa, quindi sui 3 giorni della manifesta, rispetto alla situazione politica italiana di adesso. La situazione politica italiana secondo me è molto particolare, quella che stiamo vivendo. Sono convinto che siamo usciti da una situazione di sistema politico più o meno equilibrato, che in realtà era un sistema politico detto anche opportunamente Seconda Repubblica, no? In cui c'era un po' un pendolo centrodestra, centrosinistra, no? Quindi Forza Italia, PD, ed era strutturato in questo modo. Tutto quello che avveniva in un qualche modo era riciclato e le forze in campo trovavano una loro forma di strutturazione. Credo che questo sia veramente saltato con le ultime elezioni e quindi i giochi si sono aperti, cioè siamo più in una situazione dinamica che in una situazione statica. Io tengo molto a queste distinzioni che sono poco politologiche, nel senso che insomma, la mia materia sarebbe storia delle dottrine politiche, per cui spesso mi prendono per politologo. È una definizione che non amo, perché politologo indica sempre che esista una logos, no? Un discorso che tiene la politica. In realtà la politica è o in una situazione statica o in una situazione dinamica cambiano molto le cose. Ora siamo entrati in una situazione dinamica, cioè io sentivo noi gli interventi di prima, appunto abbiamo dato una spallata eccetera. Anch'io una volta l'ho dato il voto ai 5 Stelle perché volevo che si rompesse questa situazione che durava da 20 anni, no? Il ventennio berlusconiano. Così è stato, adesso i giochi sono aperti, ma all'orizzonte si vede una chiusura terribile. Per me la chiusura è la fusione di 5 Stelle con, io dico, le 5 leghe o la Lega Stellata, insomma. Penso che questa sia una prospettiva molto possibile e c'è però un ampio margine di manovra per movimenti, situazioni come anche che sono promosse da questa festa. Insomma, è il momento di darsi molto da fare dal basso, perché tutto sommato, per quanto possa essere cupo, assolutamente sconsigliabile la prospettiva di un nuovo governo dei pappagalli, li chiamo, no, giallo-verdi, in ogni caso la base del loro consenso è molto limitata, cioè nessuno considera la disaffezione, la renitenza alle elezioni delle ultime elezioni, cioè siamo in un paese nel quale chi governa gli basta il consenso di un terzo o un quarto della popolazione. Quindi secondo me questo governo, per quanto appaia potente, perché in effetti appare potente, perché fa delle cose assolutamente inverosimili, assolutamente scorrette, aggressive, che dovrebbero suscitare molte più reazioni di quanto non... Quindi sicuramente gode di un certo consenso, ma è un consenso limitato, cioè c'è due terzi del paese che proprio è semplicemente attonito. Io credo, nel senso che non ha alternative. Dalle due formazioni precedenti, centrodestra e centrosinistra, secondo me non viene fuori più niente. Io sono assolutamente catastrofico sui prospettive del PD o di Forza Italia o delle altre forze. Adesso veramente c'è il partito dei pappagalli che si sta configurando all'orizzonte. Quando si formerà saranno una brutta storia per tutti, ma finché questo non è avvenuto c'è una situazione di grande labilità, che tra l'altro si vede, no? delle operazioni maldestre comunque fanno, no? Gaffe, discorsi sostenibili, ecco, quindi penso che sia il momento di darsi da fare, ecco, dal basso, senza subito dover anticipare, no? L'idea sì, ma quando ci saranno le elezioni chi voteremo? Se uno fa questo discorso qua sicuramente si paralizza, no? Ecco, io sono molto contrario anche a tutte le previsioni che sento circolare sul fatto che si attende un divorzio tra 5 Stelle e Lega, nel senso non durano, c'è Aldo Giannulli ad esempio, un amico e politologo, lui sì, che annuncia, dice ma quanto durerà questa cosa qua, no? Hitler e Mussolini al loro tempo tutti gli hanno detto quell'imbianchino pazzoide durerà, non è durato molto, 13 anni però voglio dire ha fatto quello che ha fatto, quindi io credo che sia un po' un alibi questo di non provare a darsi da fare sperando che la situazione migliori di per sé, che è un atteggiamento di passività, di atteggiamento da spettatore rispetto alla politica, che è il vero problema del nostro tempo, cioè di essere tutti stati cacciati in poltrona col telecomando. Ogni volta che si parla di politica, io vengo da un tempo in cui era tutto il contrario, insomma, no? In altri tempi politica significava per un giovane subito sentirsi in un qualche modo interpellato, almeno per un settore. La cosa veramente assente di oggi è che quando si parla di politica scatta no? La poltrona e il telecomando, cioè nel senso che la fanno altri, no? La fanno quelli che stanno nel palazzo. Quindi il senso di queste manifestazioni di 3 giorni della manifesta è proprio quello di costruire di nuovo una base politica dal basso. C'è la sua tradizione, insomma, siamo anche qui dentro una tradizione, eccetera. Però diciamo, io mi piace vederla dentro questa nuova dimensione che si è creata, perché si è creata, cioè di spazi più aperti, perché semplicemente il fatto che a sinistra non ci sia nessuna forza credibile, nessun monopolio in un qualche modo, per me è una cosa positiva, insomma. Io non aspettavo altro che la fine di Renzi, insomma, quindi quando è venuta non posso dire ah no, però peccato che sia venuta, no, secondo me c'è da vedere del positivo in questo.